Capitolo 12. Leslie viene in visita. Leslie giunse alla casa dei sogni in una serata di gelo. Il chiarore lunare filtrava tra le nebbie sospese sulla baia e arricciate come nastri argentei lungo le insenature. Quando Gilbert andò ad aprirle, sembrò quasi pentita di essere andata fin là, ma Anna si precipitò ad accoglierla e la tirò dentro. «Sono contenta che tu sia venuta questa sera», disse allegramente. «Nel pomeriggio ho preparato uno stupendo dolce al cioccolato e ci serve aiuto per mangiarlo davanti al fuoco, tra una chiacchiera e l'altra. Forse capiterà anche il capitano Jim, questa è la sua sera». «No, il capitano Jim è a casa», disse Leslie. «È stato lui a farmi venire qui», aggiunse, quasi in tono di sfida. «Allora, appena lo vedrò, lo ringrazierò», disse Anna, disponendo le poltrone davanti al fuoco. «Oh, non volevo dire che non mi facesse piacere venire», si affrettò ad affermare Leslie, arrossendo un poco. «È già da un po' che ci penso, ma per me non è sempre facile venire via di casa». «Certo, è un problema lasciare tuo marito», disse Anna con naturalezza. Aveva deciso che era meglio di quando in quando nominare Dick Moore e dare l'argomento per scontato anziché creare disagio evitandolo. Aveva ragione, perché l'imbarazzo di Leslie svanì all'istante. Evidentemente si stava chiedendo se Anna fosse al corrente della sua situazione e fu sollevata di non dover dare spiegazioni. Consegnò di buon grado berretto e giaccone e si rannicchiò come una bambina nella grande poltrona vicino a Magog. Era vestita con gusto e con cura, e un geranio rosso, spiccando sul collo bianco, dava all'insieme la consueta macchia di colore. I bei capelli rilucevano come oro fuso al chiarore del fuoco, gli occhi azzurro mare erano ridenti, suavi e affascinanti. Per il momento l'atmosfera della casetta dei sogni l'aveva trasformata in una fanciulla in memoria di un doloroso passato. Sentiva attorno a sé la presenza viva degli amori che avevano consacrato la casetta e l'affettuosa disponibilità di due coetanei sani e felici, e cedette all'incantesimo. La signorina Cornelia e il capitano Jim avrebbero stentato a riconoscerla. Anna trovava difficile credere che la donna fredda e distaccata incontrata sulla spiaggia fosse la ragazza piena di vita che ora parlava e ascoltava con l'intensità di un'anima assetata di rapporti umani. E con quanto desiderio Leslie guardava la libreria tra le finestre. «La nostra biblioteca non è vasta», disse Anna, «ma i libri che abbiamo sono veri amici per noi. Ci sono voluti anni per metterli insieme. Non ne abbiamo mai comprato uno senza prima averlo letto e aver visto che apparteneva alla razza di Giuseppe». Leslie rise. Quel riso tanto bello sembrava l'eco dell'allegria che aveva abitato la casetta nei tempi andati. «Ho qualche libro di mio padre, ma non sono molti», disse. «Li ho letti fino a saperli quasi a memoria. Altri libri non ne leggo. C'è una biblioteca circolante all'Emporio di Glen, ma non credo che chi sceglie i libri per il signor Parker sappia quali sono i libri della razza di Giuseppe, o forse non gliene importa». «Era tanto raro che me ne piacesse qualcuno che ho smesso di prenderne». «Oh, beh, spero che tu consideri tua la nostra biblioteca», disse Anna. «Saremo lieti di prestarti tutto quello che vuoi». «Voi mi invitate a nozze», disse Leslie con entusiasmo. Poi, quando il pendolo batté le 10, si alzò, quasi a malincuore. «Devo andare. Non mi ero resa conto che fosse tanto tardi. Il capitano Jim dice sempre che un'oretta non è la morte di nessuno, ma io sono rimasta 2 ore e me le sono proprio godute», aggiunse con sincerità. «Torna spesso», dissero Anna e Gilbert alzandosi. Erano vicini davanti al bagliore delle fiamme. Leslie li guardò, giovani, felici, pieni di speranze. Rappresentavano tutto quello che lei aveva perso per sempre. La luce svanì dal suo volto e dai suoi occhi. La ragazza di poco prima scomparve e fu la donna triste e provata dal destino che rispose all'invito quasi con freddezza e si congedò con un'imbarazzata frettolosità. Anna restò a osservarla finché non sparì nell'oscurità della notte, fredda e nebbiosa. Poi ritornò lentamente al caldo e radioso focolare della sua casetta. Non è stupenda, Gilbert. Ha dei capelli da sogno. La signorina Cornelia dice che le arrivano ai piedi. Ruby Gillis aveva dei bei capelli, ma quelli di Leslie sono vivi. Sembrano fili di oro puro. Sì, è bellissima, ammise Gilbert con prontezza. Ma Anna l'avrebbe forse voluto un po' meno entusiasta. Gilbert, mi preferiresti se avessi i capelli di Leslie? Chiese con una punta di invidia. Oh, per niente al mondo vorrei che i tuoi capelli fossero di un altro colore, disse Gilbert con un paio di convincenti carezze. Non saresti Anna se avessi i capelli biondi o dei capelli di qualsiasi colore, ma rossi, disse Anna con cupa soddisfazione. Sì, rossi per far risaltare la pelle bianca come il latte e i luminosi occhi grigi. I capelli biondi non ti starebbero affatto bene, regina Anna. Sì, tu sei la mia regina Anna, regina del mio cuore, della mia vita e della mia casa. Oh, adesso sì che puoi trovare bella Leslie. Capitolo 13. Una sera da fantasmi. Una sera della settimana seguente Anna decise di fare un salto da Leslie e si avviò verso il ruscello attraverso i campi. La nebbia grigia, salendo dal golfo, avviluppava la baia, ricopriva le gole e le valli e gravava sui prati dalla veste autunnale. Si udiva in sottofondo il fremito lamentoso del mare. Four Winds aveva un aspetto nuovo per Anna, magico, misterioso e affascinante, però le comunicava un certo senso di solitudine. Gilbert era fuori di casa e sarebbe tornato solo l'indomani, poiché partecipava a un convegno medico a Charlottetown. In quel momento Anna sentiva la mancanza di un'amica. Il capitano Jim e la signorina Cornelia erano di compagnia, ciascuno a modo suo, ma la gioventù vuole la gioventù. Se solo Diana o Phil o Pris o Stella potessero venire qui a fare quattro chiacchiere, disse tra sé e sé, sarebbe magnifico, questa è proprio una notte da fantasmi. Se questo velo di nebbia si sollevasse a un tratto, sono certa che si vedrebbero entrare in porto tutte le navi salpate da Four Winds e mai più tornate, con i marinai affogati schierati sul ponte, e come se questa cortina grigia nascondesse innumerevoli misteri e i fantasmi degli antichi abitanti di Four Winds mi spiassero nell'ombra. Se mai le donne vissute qui dovessero tornare a visitare la loro casa, verrebbero in una notte come questa. Restando qui ancora un po', finirò per vederne una seduta nella poltrona di Gilbert. Questo posto è un po' inquietante stasera. Sembra che persino Gog e Magog drizzino le orecchie al suono dei passi di ospiti invisibili. Oh, andrò a trovare Leslie per non farmi suggestionare dalle fantasticherie, come successe tanto tempo fa per la foresta stregata. Lascerò che la casa dei miei sogni riaccolga i suoi abitanti di un tempo. Il fuoco acceso darà loro il mio caloroso benvenuto. Quando tornerò saranno già andati via e io riprenderò possesso della mia casa. Ora io sono di troppo. Ha un appuntamento con il passato. Sorridendo delle proprie fantasticherie, pur avvertendo un certo brivido lungo la spina dorsale, Anna mandò con la mano un bacio a Gog e Magog e uscì, addentrandosi nella nebbia, con un fascio di riviste per Leslie sotto il braccio. Leslie va matta per i libri e le riviste, le aveva detto la signorina Cornelia, e non ne legge mai, non può permettersi di comprarli o di fare l'abbonamento. È terribilmente povera, mia cara Anna. Non capisco come riesca a vivere con il misero affitto della fattoria. Mai che accenni alla sua situazione finanziaria, ma io so cosa deve essere. È stato sempre un impedimento per lei. Quando era libera e piena di ambizioni non ci faceva caso, ma ora deve essere un tormento, credi a me. Sono contenta che quella sera sia stata cordiale e allegra con voi. Il capitano Jim mi ha detto che ha quasi dovuto infilarle a forza berretto e cappotto e metterla fuori di casa. Non tardare a restituirle la visita, altrimenti penserà che non vuoi vedere Dick e si rinchiuderà nel suo guscio. Dick è un bambinone, grande, grosso, innocuo, ma la sua smorfia e la sua risata da idiota danno sui nervi a parecchia gente. Grazie al cielo io non sono debole di nervi. Preferisco Dick Moore ora a quando era in sé, anche se non era del tutto normale nemmeno allora. Un giorno era andata ad aiutare Leslie nel periodo delle grandi pulizie e friggevo le ciambelle. Dick, come al solito, stava tra i piedi in attesa di assaggiarle, quando ne prese una appena tolta dal fuoco e me la infilò giù per il collo. Poi si mise a ridere, a più non posso. Credi a me, Anna? C'è voluta tutta la mia pazienza per non tirar su quella padella di grasso bollente e rovesciargliela in testa. Sola al buio Anna rise, ricordando la collera indignata della signorina Cornelia, ma il riso mal si accordava quella notte. Era del tutto seria quando raggiunse la casa tra i salici. Tutto taceva. La facciata appariva buia e senza vita, perciò Anna sgusciò fino alla porta laterale che dalla veranda dava accesso al salottino. Si fermò senza far rumore. La porta era aperta. Nella camera, debolmente illuminata, scorse Leslie Moore, seduta al tavolo, con il capo reclinato tra le braccia. Piangeva senza ritegno, con singhiozzi cupi, intensi e prolungati, come cercando di dar sfogo a un'angoscia interiore. Un vecchio cane nero le appoggiava il muso in grembo, guardandola con i grandi occhi dolci, supplichevoli, pieni di muta comprensione e devozione. Anna arretrò costernata, sentiva di non potersi intromettere in quel dolore e poi non avrebbe saputo esprimere la propria comprensione. Entrare ora voleva dire escludere per sempre ogni possibilità di offrire aiuto o amicizia. L'istinto suggerì ad Anna che quella ragazza sofferente e orgogliosa non avrebbe mai perdonato chi l'avesse sorpresa alla mercé della disperazione. Anna si allontanò in silenzio dalla veranda e attraversò il cortile. Sentì nell'oscurità delle voci poco lontane e scorse un chiarore. Al cancello incontrò due uomini. Il capitano Jim, con una lanterna, e un altro che doveva essere Dick Moore, un omone grosso e grasso con un faccione rosso e occhi assenti. Anche in quella luce incerta Anna ebbe l'impressione di qualcosa di insolito in quegli occhi. «E lei, Madame Blythe?» disse il capitano Jim. «Su via, non dovrebbe andarsene in giro da sola in una notte come questa. Ci vuole niente a perdersi nella nebbia. Aspetti che accompagno Dick dentro e torno a farle strada. Non voglio che il dottor Blythe, tornando a casa, scopra che la moglie è precipitata giù da Capo Le Force per la nebbia. A una donna è successo 40 anni fa». «Così è andata a trovare Leslie?» disse quando l'ebbe raggiunta. «Oh, non sono entrata», disse Anna, e gli riferì quello che aveva visto. Il capitano Jim sospirò. «Povera ragazza, non piange spesso, Madame Blythe, è troppo coraggiosa. Per piangere lei bisogna che sia proprio giù. Una notte come questa deve essere dura per una donna con dei dispiaceri. C'è qualcosa nell'aria che riporta a galla tutte le sofferenze e le paure». «Sì, è piena di fantasmi», disse Anna rabbrividendo. «È per questo che ero venuta qui. Volevo stringere una mano umana, sentire una voce umana. Avvertivo troppe presenze non umane attorno a me. Ne era piena persino la mia cara casetta. Mi hanno quasi costretta a uscire, così sono venuta qui di corsa, in cerca di compagnia». «Però ha fatto bene a non entrare, Madame Blythe. A Leslie non avrebbe fatto piacere. E non le avrebbe fatto piacere che entrassi con Dick, come avrei fatto se non avessi incontrato lei. Dick è stato da me tutto il giorno. Lo tengo un po' per dare un aiuto a Leslie. Non ha qualcosa di strano negli occhi? L'ha notato? Sì, ne ha uno azzurro e l'altro castano come suo padre. È una caratteristica dei Moore. Per quello ho capito che era Dick Moore quando l'ho visto, laggiù a Cuba. Se non era per gli occhi, tra la barba e la ciccia, non l'avrei riconosciuto. Credo che lei sappia che sono stato io a trovarlo e a riportarlo a casa. La signorina Cornelia dice sempre che non avrei dovuto farlo, ma non sono d'accordo con lei. Era la cosa più giusta da fare, quindi andava fatta, su questo non ho dubbi. Ma il mio vecchio cuore soffre per Leslie. Ha solo 28 anni e ha avuto più disgrazie lei che tante donne di 80. Camminarono per un po' in silenzio, poi Anna disse: «Sa, capitano Jim, non mi piace camminare alla luce della lanterna. Ho sempre la strana sensazione che ai bordi del cerchio di luce, dove incomincia l'oscurità, si affollino creature furtive e sinistre che mi spiano con un guardo ostile. È una sensazione che provo fin dall'infanzia. Chissà perché. Non è la stessa cosa quando il buio è completo e mi stringe da vicino. Allora non ho alcuna paura». «Beh, anch'io provo più o meno la stessa sensazione», ammise il capitano Jim. «A mio vedere, se il buio c'è vicino, c'è amico. Ma quando lo respingiamo, lo separiamo, per così dire, da noi con la lanterna, allora diventa un nemico. Ma la nebbia si sta alzando, si sta levando un forte vento di occidente, come avrà notato. Quando arriverà a casa si vedranno le stelle. E fu così. Quando Anna rientrò nella casa dei suoi sogni, le braccia ardevano ancora nel camino e i fantasmi erano spariti.